reportage. UE al di là dell'Atlantico. Bruxelles attende il 45esimo presidente USA. Di Sergio Nava. Stati Uniti ed Europa, partner a volte persino controvoglia, ma inevitabilmente alleati. Le elezioni presidenziali americane di martedì prossimo arrivano in un momento non felicissimo per i rapporti transatlantici, tra stallo del trattato di libero scambio o TTIP, da molti dato ormai per defunto, e tensioni economiche e fiscali, dopo il caso Apple, senza contare la Brexit. In questo Euroreportage faremo il punto su cosa ne sarà dei rapporti tra Washington e Bruxelles dopo l'8 novembre, sia sul fronte politico che su quello economico e commerciale. Iniziamo allora col fronte politico. Abbiamo chiesto alla giornalista Giampiero Gramaglia, consigliere dell'Istituto Affari Internazionali, di fotografare lo stato attuale dei rapporti euroamericani. Sono rapporti senz'altro di alleanza nel contesto della NATO e di dialogo nel contesto dell'Unione Europea, con un negoziato aperto e non in dirittura finale sull'eventuale area di libero scambio transatlantica, ma sono rapporti che risentono di una difficoltà di relazioni personali, di una mancanza di intese e di feeling tra il presidente Obama e alcuni leader europei, anche la cancelliera tedesca Angela Merkel, donde il rifugio di Obama in un rapporto forte per esempio con il premier italiano Matteo Renzi, mancandogli gli interlocutori tradizionali francesi e tedesco ed essendogli venuto meno il rapporto privilegiato con la Gran Bretagna, che ha scelto di non essere più una voce dell'Unione Europea. Passiamo ora alle previsioni che possiamo tracciare in vista delle prossime elezioni. Partiamo dall'ipotesi forse più temuta in Europa, quella di una vittoria di Donald Trump. La vittoria di Donald Trump metterebbe l'Europa, ma tutto il mondo, di fronte a un leader imprevedibile nei suoi comportamenti e nelle sue reazioni. Certo, sul piano teorico sarebbe un leader aperto a una liberalizzazione degli scambi, almeno con l'Europa. Nel contempo, nei suoi dibattiti televisivi e nei suoi comizi, continua ad avvertire gli alleati europei che dovranno pagare per la loro sicurezza e che gli Stati Uniti di Trump sono stufi di pagare per quello che gli europei sono reticenti a fare. Quindi si prospetta un rapporto conflittuale in termini di alleanza militare e di sicurezza, e del tutto indeterminato in termini di relazioni economiche e commerciali. Però Trump è abituato a stupire, quindi bisogna aspettare e vedere quale sarà eventualmente il Trump presidente. C'è effettivamente da augurarsi per l'Europa che vinca Hillary Clinton? È davvero una garanzia? Hillary Clinton sarà o sarebbe un'interlocutrice piuttosto nelle relazioni internazionali di Barack Obama, meno accomodante, meno incline al dialogo e all'attesa di quanto non sia stato Obama, più decisionista e più incline all'azione, ma sarebbe senz'altro una garanzia di stabilità dell'alleanza transatlantica sul piano della sicurezza e sul piano militare. Chiudiamo con l'Europa che abbiamo oggi, Europa in crisi, Europa spesso impotente persino nelle cose più semplici, come chiudere un trattato commerciale con il Canada. Quanto gli Stati Uniti, chiunque sarà il suo presidente o la sua presidente, potranno ancora essere pazienti con un'Europa monca anche, tra l'altro, di un alleato cruciale per loro come la Gran Bretagna? Vero interrogativo non è quanto possano essere pazienti un presidente degli Stati Uniti o un presidente cinese o un presidente indiano o un presidente russo, il vero interrogativo è quanto possano essere pazienti gli europei. Da dai rapporti politici a quelli economico-commerciali, cosa succederebbe in caso di vittoria di Hillary Clinton oppure di Donald Trump? Come base di partenza prendiamo le recenti frizioni su TTIP ed Apple che hanno irrigidito le relazioni transatlantiche negli ultimi mesi e settimane. Il quadro lo traccia Daniel Gross, direttore del Center for European Policy Studies a Bruxelles. Gli abbiamo chiesto quanto sia pesante l'eredità che lascia Barack Obama in termini di tensioni sulle due sponde. Non penso. In fondo c'è sempre qualche contenzioso commerciale tra gli Stati Uniti e l'Europa. Ma in questo momento non si può dire che sia peggio del solito. Il caso Apple è naturalmente un po' diverso, riguarda non il commercio ma la tassazione delle imprese, ma penso anche su questo si troverà alla fine un accordo. Quindi diciamo le varie indagini che ci sono in corso anche da parte della commissaria Vestager, non solo su Apple ma anche su altre multinazionali, non stanno a suo parere inquinando un po' i rapporti tra Washington e Bruxelles? È chiaro che gli americani non sono molto contenti perché la Commissione Europea si focalizza sulle multinazionali e quando si dice multinazionali sono naturalmente spesso multinazionali americane. Ma è chiaro che l'intento della Commissione non è anti-americano, è solamente di gestire un problema intraeuropeo della tassazione di quello che fanno le imprese in Europa e per caso nella rete cascono anche alcune imprese americane, ma non è veramente un confronto diretto tra Stati Uniti e Europa. Un altro fronte che resta aperto, nonostante si volesse chiudere entro la presidenza di Barack Obama, è il TTIP, il Trattato di Libero Scambio. Qui le prospettive sembrano molto molto grigie, almeno nel breve medio periodo. È chiaro che questo trattato in fondo è morto, perché gli Stati Uniti non si interessano tanto e per loro il Pacifico è la priorità. Ma anche il trattato transpacifico che è già pronto non si sa se verrà approvato dal Congresso, per cui per gli Stati Uniti per il momento il trattato con l'Europa è di secondo ordine. Passando ora alle previsioni e continuando a parlare ovviamente di rapporti economici e commerciali, sarà così devastante un'eventuale vittoria di Donald Trump per l'Europa come molti temono? Avrà senz'altro un impatto molto importante perché negli Stati Uniti il Presidente non può fare molto sul campo della politica fiscale interna, ma il Presidente ha un'influenza fortissima sul lato della politica commerciale e della politica estera. E Donald Trump ha già detto che la prima cosa che farà è alzare le tariffe. Questo naturalmente per un'economia così aperta come noi sarebbe molto negativo. Per cui con Donald Trump avremo senz'altro dei rapporti geopolitici già tesi e economico-commerciali ancora più difficili. Mentre Hillary Clinton sarebbe una maggiore garanzia di stabilità oppure no? È senz'altro il male minore perché Hillary Clinton se potesse fare quello che vuole sarebbe anche un trattato transatlantico. Ma avrà le sue mani legate dal Congresso, per cui proverà a dare continuità sia sul fronte geopolitico che su quello commerciale, proverà ad avere dei rapporti buoni, amichevoli con l'Europa anche sul fronte commerciale e adesso si tratta di vedere se il Congresso glielo permetterà. E per chiudere la nostra ospite d'eccezione, la commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager, la donna che sembra aver raccolto l'eredità di Mario Monti nei contenziosi con le multinazionali americane. È lei che ha imposto all'Irlanda di recuperare 13 miliardi di euro da Apple dopo che gli accordi tra Dublino e la corporation americana sono stati giudicati illegali da Bruxelles. A Radio 24 Margrethe Vestager ci parla di questo caso e degli altri contenziosi a venire sulle due sponde dell'Atlantico. Da un lato c'è un disaccordo con gli Stati Uniti nel caso Apple, dice a Radio 24 Margrethe Vestager, perché Washington non considera la legge sugli aiuti di Stato come una delle regole per far valere la concorrenza. Dall'altro lato abbiamo una forte cooperazione con le autorità americane su antitrust, cartelli, fusioni e su temi fiscali globali, così afferma la Vestager, alla quale chiediamo a che punto sia la vicenda Apple. Ciò che accade ora è che le tasse non pagate dovranno essere pagate, quindi questa somma dovrà essere depositata in un conto chiuso e occorrerà aspettare l'esito dell'appello presentato da Apple e dall'Irlanda. E su Google chiediamo a Margrethe Vestager a che punto siete nelle indagini. Penso che la cosa importante sia avere indagini ben condotte che garantiscano alle aziende una piena difesa. Quindi anche per me, che sono una persona impaziente, se queste aziende hanno bisogno di più tempo, è giusto che venga loro concesso. A quel punto vedremo se riusciranno a cambiare la nostra prospettiva. Noi pensiamo di aver trovato le prove per sostenere la nostra convinzione preliminare che Google abbia abusato della sua posizione dominante. Aprirete altri fronti contro Amazon e McDonald's, per esempio, le chiediamo? Siamo passati attraverso molti procedimenti. Apriamo casi se riteniamo che ci siano motivi di preoccupazione, ma non abbiamo ancora deciso se aprirne di ulteriori. Dobbiamo essere certi delle nostre motivazioni. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.